immaginate Central Park, immaginatelo con decine di migliaia di persone, tutte impazienti di scoprire chi vincerà la maratona di New York. Nel nostro racconto siamo all'undicesima maratona di New York, e siamo a pochi attimi dall'esplosione della folla, insomma gli occhi sono puntati sul corridore che sta per vincere. E l'undicesima maratona si svolge il 2 novembre 1980, c'è un corridore che sta arrivando al traguardo, si chiama Alberto Salazar e sta per diventare una leggenda delle maratone assieme a lui, però sta per diventare una leggenda anche uno strano baffo che è sulle sue scarpe. Insomma, Salazar quel 2 novembre sta per vincere, anzi nella nostra narrazione a questo punto ha vinto, ha concluso la maratona di New York, primo classificato, è ignaro però che ai piedi lui ha un paio di scarpe che sta per conquistare il mondo. Ma chi è il vero protagonista di questa storia? Non Alberto Salazar, che è stato un grande maratoneta, ma noi stiamo per concentrarci sulla mente che sta dietro a quelle scarpe, in realtà dietro a quel baffo. Oggi stiamo per parlare di quello che ha contribuito a quel primo posto alla maratona di New York e a tanti tanti primi posti. Oggi raccontiamo Phil Knight, il fondatore della Nike. Era un'idea folle per il resto del mondo, ma per me non lo è mai stata. Per me è sempre stata una grande speranza. Dal momento in cui ho scritto il mio progetto a Stanford, già sapevo che se avessi potuto, era quello che avrei voluto fare nella mia vita. Sapevo che le probabilità erano un po' contro di me e che sarebbe stata dura rendere questo sogno possibile. Dove non c'è lotta, non ci può essere arte. L'unica volta in cui ti senti vincente sarà la volta in cui non ci proverrai per davvero. Abbiate il coraggio di cogliere le occasioni, in modo da non lasciare che il vostro talento rimanga sepolto nel terreno. Avete sentito il coraggio, la motivazione che hanno portato Knight a essere uno degli imprenditori dello sport più influenti al mondo? Diamo delle cifre: 80.000 dipendenti, 35 miliardi di fatturato che posizionano Phil Knight tra i primi 30 uomini più ricchi del pianeta. La fama del marchio, lo sapete, è pazzesca, collaborazioni super illustri. Pensate a Michael Jordan, personaggio storico per la Nike, ma pensate che nel 2016 è stato stipulato il contratto più importante di questa azienda, il contratto a vita con LeBron James, valore $1 miliardo. Phil Knight nasce a Portland, nell'Oregon, il 24 febbraio del 1938. Dopo il college frequenta la facoltà di contabilità e in quegli anni sta correndo nella squadra di podismo della sua università. Non è il migliore, il suo istruttore Bill Bowerman in realtà lo usa come cavia nelle sue ricerche per la scarpa perfetta, e quindi bisogna spendere due parole su quest'uomo, su questo istruttore. È uno importante nella storia che stiamo raccontando. Phil Knight lo descriveva come un allenatore geniale, un maestro nel motivare i suoi atleti, un leader naturale, però soprattutto era uno ossessionato dalle scarpe. Ci sono tante persone ossessionate dalle scarpe, ma magari un po' meno ossessionate dalle scarpe da corsa. Comunque immaginate un uomo che passava giornate intere a smontare e rimontare scarpe e farle provare ai suoi corridori. E dopo il college Phil si iscrive a un master in amministrazione e finanza a Stanford. Qui, durante un lavoro di gruppo, gli viene l'intuizione che cambierà la sua vita: importare in America le Tiger, scarpe da corsa giapponesi che erano ancora sconosciute. Non so se avete mai presentato nella vostra vita un progetto o un lavoro di gruppo a scuola. Beh, in genere la reazione comune della classe, dei professori, è indifferenza, noia, risatine. La stessa cosa succede a lui, a Phil. Espone il progetto, nessuno l'ascolta. Non sappiamo cosa lui abbia provato in quel momento, però sappiamo che qualcosa è scattato in quell'attimo. L'idea folle, l'idea di vincere sempre. Lui era convinto che il suo progetto sarebbe comunque stato vincente, e allora decide di partire. Per tutto il tempo che rimasi ancora a Stanford durante ogni corsa mattutina, avevo ponderato di andare in Giappone, trovare un'azienda che produceva scarpe e decantare a loro la mia idea folle. La speranza era che reagissero con più entusiasmo dei miei compagni, che volessero entrare in affari con un ragazzino timido, pallido, magro come un chiodo del sonnacchioso Oregon. Mi ero trastullato anche con l'idea di fare una deviazione esotica andando e tornando dal Giappone. Come posso lasciare il mio segno nel mondo, pensavo, se prima non ci vado e lo vedo. Alla vigilia di una corsa importante, vuoi sempre vedere la pista. Un viaggio zaino in spalla, intorno al globo, avrebbe potuto essere la cosa giusta, ragionavo. E questo è un pezzo tratto dall'autobiografia di Phil Knight che lui ha scritto nel 2016, L'arte della vittoria, esce per Mondadori. Phil ci racconta che lui parte con un suo amico, dentro la sua borsa ci sono jeans infradito e pantaloncini, però decide di mettere nella borsa anche un vestito buono, quello delle grandi occasioni, non si sa mai. Il viaggio comprende varie tappe del mondo. Prima tappa Hawaii, e lì loro, insomma, se la prendono comoda, rimarranno per circa un anno, e alla fine Phil continua da solo verso il Giappone. Qui prende una stanza in un ryokan, non so se sapete bene cos'è un ryokan, è un albergo tipico del Giappone, vecchio stile, letti rasoterra, porte scorrevoli, sta aspettando di incontrare i pezzi grossi della Onitsuka, che è l'azienda che produce le Tiger e che oggi è diventata ASICS. E l'appuntamento è fissato per la mattina del giorno dopo. Phil lascia l'albergo per andare all'azienda e arriva subito il primo imprevisto, perché lui non sa che ci sono due sedi dell'Onitsuka, e naturalmente si dirige alla sede sbagliata. Insomma, arriva all'appuntamento nella sede giusta con mezz'ora di ritardo, e si sa che i giapponesi sono persone estremamente puntuali, gente che spacca il secondo, però comunque lo perdonano, hanno visto in lui forse questo piglio da imprenditore nascente. Si inchinano e lui si inchina, si fa avanti Ken Miyazaki, che è un dirigente dell'Onitsuka, gli fa fare un giro dell'azienda, e lui, insomma, vede la fabbrica di scarpe più grande che avesse mai visto, 15.000 scarpe sfornate in un mese, numeri per quei tempi assolutamente impressionanti. E il giro dell'azienda continua, si arriva alla fatidica sala delle riunioni. Mr. Knight si siede al posto d'onore, tutto dipende dal suo essere all'altezza dell'occasione, cioè lì lui si sta giocando tutto, ha in mente cosa dire, ha un discorso che ha studiato mille volte, lo ha ripetuto alla perfezione, e poi si guarda intorno, è un po' rassicurato dal fatto che i dirigenti sono tutte facce giovani come lui, e sta per fare parola per parola la stessa presentazione che aveva fatto a Stanford, ricordate quel discorso che in classe non aveva avuto successo. Adesso lui è pronto a ricevere una pioggia di domande e a prendersi la sua rivincita. Mr. Knight, per quale società lavora? Mi domandò Miyazaki. Ah già, bella domanda. Con l'adrenalina che mi gonfiava le vene, avvertì l'impulso di fuggire, di darmela a gambe e nascondermi, il che mi fece venire in mente il posto più sicuro del mondo: la casa dei miei. La casa era stata costruita decenni prima da persone ricche, gente che aveva molti più soldi dei miei genitori, e perciò l'architetto aveva previsto sul retro della costruzione gli alloggi per la servitù. E quegli alloggi erano diventati la mia camera, che avevo riempito di figurine del baseball, dischi, poster, libri, tutto ciò che avevo di sacro. Una parete era tappezzata dei Blue Ribbon, conquistati correndo, l'unica cosa della mia vita di cui andavo assolutamente fiero. E allora? Blue Ribbon, sbottai. Ma signori, rappresento la Blue Ribbon Sport di Portland, Oregon. E Phil prende ispirazione per il nome della sua azienda, che in quel momento è inesistente, dalle Blue Ribbon. Sono quelle coccarde che tappezzavano camera sua, lui le aveva vinte alle gare di atletica all'università. Sarà anche per il fatto che il nome è simpatico, Miyazaki si lascia convincere dal nostro uomo. L'accordo è fatto, le Tiger verranno importate in America, Phil si occuperà della commercializzazione. I giapponesi sono affascinati da questo ragazzo. cazzo. Però naturalmente inizialmente sono diffidenti, vogliono un pagamento anticipato, e qui c'è solo una cosa da fare perché parta il primo carico di scarpe: c'è un bonifico che Phil chiede di fare al padre a favore dell'Onizuka Corp. Il padre non si fa attendere molto, poi in realtà il bonifico è un bonifico di soli $50. Immaginiamoci Phil sull'aereo del ritorno con i pensieri che corrono nella sua mente. È teso, sì, ha conquistato la sua prima vittoria, però sa insomma di avere bluffato, ha ingannato l'Onizuka. Quello del Giappone è stato un momento molto importante del suo percorso, però in realtà a posteriori la tappa che si rivelerà determinante è in Grecia, e nella prima parte del viaggio lui aveva visitato il tempio di Atena che portava la Nike per i greci. Nike vuol dire vittoria, questo nome Nike e vi farà venire in mente qualcosa, soprattutto se lo americanizziamo e lo facciamo diventare Nike. La visita di questo luogo sacro insomma gli dà una nuova speranza. Lui non sa che la stessa speranza poi in realtà sarebbe stata messa alla prova più tardi. Infatti le prime scarpe arrivano solo un anno dopo. È il Natale del 1963 e sotto l'albero, se così si può dire, Phil ha la possibilità di toccare il primo paio di Tiger e naturalmente ne manda due da provare subito a Bill Bowerman, il suo vecchio allenatore. Vi ricordate Bowerman, il guru delle scarpe? Per lui era come un dio, il suo parere contava tantissimo per Phil. Bill rimane così colpito che un giorno davanti a un hamburger propone a Phil di diventare socio. Lo carica in macchina, vanno a casa del suo avvocato. Siamo nel gennaio del 64. Phil Knight e Bill Bowerman firmano la fondazione della Primavera Blue Ribbon. Finalmente questa società esiste sul serio. 51% a Phil e 49% a Bill. Mentre Knight è sulla strada di casa, i suoi pensieri tornano a quella sera che aveva passato a Milano, perché era anche passato da Milano, era andato alla Scala tornando dal Giappone e si era commosso ascoltando guardando la Turandot di Puccini, e aveva sentito i versi del principe Calaf, quelli che incitano la vittoria. Vittoria, Nike, anzi Nike, parola che entrerà nella sua vita per sempre. Il giorno dell'indipendenza, 4 luglio del 64, la Blue Ribbon ha venduto tutto il primo carico, carico da $1,000. Al secondo carico l'ordine viene già triplicato. Phil da solo vuole allargare il suo mercato, vuole arrivare in California, ma non ha tempo, non ha soldi perché ha appena investito nella seconda mandata, nel secondo carico, e come al solito però non si fa trovare impreparato, risolve subito il problema. Si mette la sua vecchia divisa dell'esercito, sì, perché dovete sapere che dopo l'università lui aveva fatto un anno di leva, riempie una valigia piena di Tiger, va alla base militare locale, nessuno lo ferma, si imbarca su un cargo che va in California, sbarca a Los Angeles che è già lanciatissimo nel business, e lì riceve una lettera. Gli ha scritto un allenatore di lotta di un liceo dell'America dell'Est che dice di essere stato incaricato dall'Onizuka di distribuire in esclusiva le Tiger in America. Insomma, quest'uomo proibisce il commercio a Phil, che questo è un disastro. Le scarpe già sono arrivate dopo un anno, adesso che l'impresa sta partendo lui scopre di non avere l'esclusiva promessa dai giapponesi. Tutti si sarebbero scoraggiati, ma non lui. Lui ha fatto sua la frase di Jim Morrison: il vincitore è un sognatore che non si è mai arreso. Insomma, riparte per il Giappone, incontra direttamente Mr. Onizuka, che capisce immediatamente che questo ragazzino dell'Oregon, questo ragazzo ormai, è l'uomo giusto, gli affida definitivamente il nuovo mercato. Mr. Knight ce l'ha fatta di nuovo, la sua attitudine a convincere e a piacere agli altri ha fatto il colpo, l'America è sua. Il falco. Il falco. Il falco. E il gabbiano. E Il nostro protagonista di oggi è Phil Knight, l'uomo che sta dietro a quel baffo che vedete su scarpe, magliette, pantaloncini sportivi. Insomma, lui ha fondato la Nike, in realtà la Nike, perché parte da una sua folgorazione greca per la parola vittoria, e poi però per tutti nel mondo, come ahimè accade, Nike è diventato Nike. Questo giovane podista era partito nel 64 per viaggiare alla ricerca della scarpa perfetta, per viaggiare alla ricerca della grande occasione della sua vita, e è tornato dai suoi primi viaggi con un'idea che ha rivoluzionato il mondo dello sport. Ha fondato la Blue Ribbon, che è solo il primo passo verso il colosso Nike. E l'abbiamo lasciato con un contratto di esclusiva per la distribuzione della Onitsuka Tiger, dopo varie difficoltà che lui è sempre riuscito a superare col suo ingegno, col suo talento, con la sua capacità di convincere e di piacere agli altri. Intanto sono passati gli anni, siamo nel 71 e la Blue Ribbon ha superato $1 milione di fatturato. Tutto va bene, però la Blue Ribbon ha un problema di liquidità, perché i ritardi di consegna della Onitsuka l'hanno messo un po' in ginocchio. Arrivano i primi ostacoli, l'azienda giapponese manda un suo uomo da Phil, diciamo per un viaggio di cortesia, che poi si rivelerà un tentativo di acquisizione ostile, si chiama in termine tecnico. Sì, perché i giapponesi adesso la Blue Ribbon la vogliono comprare. Questo sarebbe un problema per chiunque, ma non per lui, perché lui ha già in cantiere un nuovo paio di scarpe che vuol far produrre un altro fornitore, stringe un nuovo accordo, produce le nuove scarpe. L'unica cosa che manca è il nome di queste scarpe e un logo da stamparci sopra. E il tempo sta stringendo, perché Phil deve completare l'ordine al suo nuovo fornitore. I nomi sono tanti: Dimension 6, Falcon, Belgan, tutti nomi che non dicono troppo in realtà. Poi arriva una chiamata e Woodell è un vecchio collaboratore della Blue Ribbon. Durante la notte, in sogno, ha visto il nome Nike Nike, e in quel momento a Phil tornano in mente l'Acropoli, la dea della vittoria, gli torna in mente quella specie di presagio che aveva avuto in Grecia. Insomma, ha deciso, la Blue Ribbon cambia nome e diventa Nike, o per meglio dire Nike, anzi per peggio dire. Beh, ho pensato che fosse solo l'inizio, potevamo crescere ancora di più. Ovviamente nessuno di noi si aspettava di diventare così grandi. Ma ad un certo punto è aumentata anche la competizione, per questo hai costruito la tua azienda, la Nike. Avevi bisogno di un simbolo e immagino che qualcuno abbia ideato questo swoosh. Lo hai pagato $35, giusto? Sì, lo ha fatto una studentessa di arti grafiche di Portland, Caroline Davidson, che aveva bisogno di soldi. Le abbiamo detto, ti pagheremo $2 all'ora per il design del logo. E ci ha messo ben 17 ore e mezzo. In realtà ha avuto un bel lieto fine. Quando siamo diventati popolari, le abbiamo dato 500 titoli azionari. Ha venduto una singola azione e ora ha più di $1 milione. Il primo paio di Nike in realtà è un disastro. Dopo una sola partita di football americano la scarpa è già da buttare. Insomma, Phil deve trovare un'altra fabbrica che produca scarpe più resistenti. Torna in Giappone, si rivolge a uno shoe dog, fondamentalmente è uno di quegli invasati che sa tutto di scarpe, ogni utilizzo, ogni marca, ogni componente, e qui trova la Nippon Rubber, che è ancora più grande dell'Onitsuka. Sceglie la Nippon Rubber come nuovo fornitore. Da questa collaborazione nasce la scarpa che almeno nelle intenzioni dovrebbe essere la scarpa perfetta. È un evento singolare che per certi aspetti nasce in una cucina, la cucina di Bowerman. E già, perché il nostro guru dell'atletica, quello di cui ogni tanto parliamo, sta facendo colazione, waffle con sciroppo d'acero pare. Comunque la sua attenzione viene catturata dalla piastra con la quale sta preparando la colazione, insomma, quelle cellette quadrate che danno la forma a questa roba molto americana del waffle. Vabbè, insomma, Bowerman in quella forma vede la suola che cercava da anni, perché quei quadratini avrebbero potuto generare aderenza, quindi più velocità per i suoi allievi podisti. Insomma, decide di usare quel quadratino come stampo, chiama la Nippon Rubber e chiede di produrre questa nuova forma di suola. Con questo, con molti altri modelli Nike, la Blue Ribbon va alla Fiera Nazionale degli Articoli Sportivi del 72, un'occasione fondamentale per l'azienda, come, non so, per i costruttori di imbarcazioni, il salone nautico, per quelli che fanno le macchine, Ginevra. Insomma, lì la Blue Ribbon ha l'occasione di mettere in mostra le sue scarpe, di fare il colpo grosso. Peraltro anche stavolta non va tutto secondo i piani, perché Phil si accorge che le scarpe sono sbagliate le taglie, c'è il logo storto perché è stato messo al contrario. Insomma, è un disastro, teme che nessuno voglia investire nei suoi prodotti, sta pensando a una soluzione ma non ha il tempo per rimediare, stanno già arrivando i finanziatori. Peggio di così le scarpe non potranno mai essere, miglioreranno, perciò se riusciamo a vendere queste saremo un pezzo avanti. Guardammo fuori ed eccoli che arrivavano, una folla di venditori che avanzavano come zombie verso il nostro stand. Iniziarono a sottoporci ad un fuoco di fila di domande. Ehi, cos'è questa? È una Nike. Che diavolo è Nike? È la dea greca della vittoria, sai, la Nike. E questo cos'è? È uno swoosh. E che diavolo è uno swoosh? La risposta mi uscì da sola. È il rumore di qualcuno che ti supera. Gli piacque. E come se gli piacque. Ci diedero da fare. Piazzarono ordini, in realtà. Alla fine della giornata avevamo superato le nostre più rosee aspettative. Eravamo uno dei grandi successi della fiera. O almeno così la vedevo io. Insomma, avete capito, ce l'ha fatta ancora una volta, ce l'ha fatta con la forza delle sue parole, è stato sfacciato, è riuscito a rimediare a, diciamo, proprio agli errori strutturali che in quel momento avevano le sue scarpe, ha conquistato lo stesso la platea di venditori e pensate, dalla sua parte non aveva niente, perché le scarpe erano brutte, aveva solo il suo carisma e, come sempre, il suo carisma non lo tradisce. Le Nike cominciano a prendere vita ordine dopo ordine, lui comincia a far provare i suoi modelli anche agli atleti che stanno per andare alle Olimpiadi del 72. Il fatturato sale, praticamente non è che sale, stiamo parlando di un nuovo bilancio, perché non è più il bilancio della Blue Ribbon ma quello della Nike. Phil ormai ha capito che si può iniziare a competere con i grandi colossi Adidas, Puma, New Balance e non è più un ragazzo con un sogno, è un imprenditore che sta iniziando a raccogliere i frutti di tutto quel lavoro, di tutto quell'impegno dato in questa azienda e anche, diciamolo, i frutti della sua genialità. E a questo punto capisce che l'unico modo di fare il salto ulteriore è quello di ingaggiare dei testimonial, atleti famosi. Cominciano le prime collaborazioni con sportivi di un certo calibro, per esempio Ilie Năstase, era un tennista rumeno famoso, particolare, un grande personaggio. Lui stava distruggendo molti avversari e lo faceva con le Nike ai piedi, ogni volta che si alzava in punta di piedi, ogni volta che scagliava, insomma, uno dei suoi servizi, il mondo vedeva quel baffo, un'occasione d'oro. Un atleta che già indossa le Nike sarebbe diventato il loro testimonial. Questo accordo, che è il primo accordo per Phil, viene chiuso a $10,000, una cifra che fa sorridere se pensi a oggi a quanti miliardi la Nike avrebbe investito di lì a pochi anni per sponsorizzare i più grandi atleti della storia. Il falco. Il falco. Il falco. E il gabbiano. Torniamo a quella mattina del 1980 nella quale Salazar vince la sua maratona di New York, portando, come dire, il primo grande successo sportivo alle Nike, un trampolino di lancio incredibile. Tutti parlano delle Nike, sono diventate le scarpe da corsa per eccellenza, vendite che continuano a salire. Nel 1984 Phil Knight riesce a ingaggiare da sponsor un giovane giocatore di basket del North Carolina e al suo ultimo campionato universitario. diventa rilevante a questo punto un personaggio che sta lavorando da tempo alla Nike, che sta supervisionando il mondo del basket. Si chiama Sonny Vaccaro, diciamo un talent scout, per chi non lo sapesse. Insomma, in America le squadre delle università sono molto seguite perché sono il trampolino di lancio, sono il primo passo verso la carriera professionale con lo sbarco nell'NBA. E questo Sonny Vaccaro ha un'intuizione. Lui vuole scommettere tutto il budget che ha a disposizione su un giovane promettente che quell'anno peraltro parteciperà alle Olimpiadi di Los Angeles. E questo ragazzo nessuno sa bene chi sia, perché ci sono un sacco di giovani talentuosi nel mondo universitario. Vaccaro è l'unico che vuole scommettere proprio su di lui. Knight ha già molti talenti sott'occhio, altri atleti. Sonny lo convince a puntare tutto il budget su questo atleta che è poco più che un emergente. Beh, quel ragazzo si chiama Michael Jordan. Ci sono pareri discordanti su chi effettivamente abbia convinto Michael a firmare quell'accordo, forse l'allenatore della sua vecchia squadra, forse i tanti soldi offerti, forse lo stesso Vaccaro. Di certo, insomma, questa è l'intuizione più azzeccata che la squadra Nike potesse avere. Come dice Phil in una delle sue interviste, il successo ha migliaia di padri, il fallimento è orfano, quindi adesso molti si prendono i meriti per questo ingaggio. Peraltro abbiamo delle certezze: Jordan inizialmente non è per niente interessato alla Nike, è più fedele alle Adidas o alle Converse, che in quel momento sono le scarpe più utilizzate dai giocatori di basket. Le uniche cose che lo hanno colpito sono prima gli uffici della Nike e poi il progetto che gli propone Phil. Non ho mai indossato le scarpe Nike finché non ho firmato il contratto. Fino a quel momento la mia scarpa preferita era un'altra. A quel tempo tutti quanti stavano cominciando a offrirmi le loro scarpe da indossare. Io ero pro Adidas. Sono andato alla presentazione Nike. Lì hanno fatto un enorme sforzo per tentare di avermi, tentare di avere il mio contributo sul design della scarpa, su qualunque tipo di scarpa che io volessi indossare. Io sono tornato dall'Adidas e ho detto: ascoltate, questo è il contratto della Nike. Se anche voi mi fate indossare vestiti, io sto con voi, ragazzi. Ma a quel tempo l'Adidas era un brand europeo e non aveva grandi interessi per il mercato americano. Per me è stato perfetto, perché ha reso la mia decisione più facile. Sono finito con la Nike. Da quel momento la mia collaborazione è sbocciata. Avete sentito dalla voce di Michael Jordan, la situazione sboccia, arriviamo all'85 e sugli scaffali vanno a ruba le prime Air Jordan. Lui gioca così, con queste scarpe, tutte le sue partite con i Chicago Bulls. Tra l'altro sarebbero anche scarpe vietate per regolamento perché sono troppo colorate. Ogni partita Jordan prende multe da $5,000, ci pensa Phil a pagargliele ovviamente. Jordan sta diventando sempre più grande. Phil capisce benissimo che questa sua ascesa non mette in ombra il marchio Nike, anzi lo esalta. La Nike nel frattempo ha iniziato a produrre abbigliamento sportivo, sta ampliando il suo mercato. Alla fine degli anni 90 è sua la più grande fetta di mercato di scarpe di abbigliamento sportivo, il 47%, quasi una scarpa ogni due aveva il baffo stampato sopra. Fino adesso la storia di Phil Knight è una storia solo di trionfi, ma c'è un'ombra ed è un'ombra molto grave. Michael Moore accusa Knight di sfruttamento minorile, perché la Nike a questo punto della storia ha centri di produzione ovunque, soprattutto in Asia. Moore nel documentario The Big One del 97 pone la lente di ingrandimento su degli stabilimenti indonesiani e in quel periodo lì c'era un regime totalitario che peraltro ha ucciso migliaia di persone e c'era questo lavoro minorile sottopagato che era una prassi di tutto il paese. Moore accusa apertamente Phil di sfruttare bambini e Phil è preso in contropiede, risponde in modo quasi impassibile, è turbato perché lui in realtà non è mai stato in Indonesia e non conosce la reale situazione degli stabilimenti. Beh, certamente non approverei nessuna cosa di questo genere, ma voglio dire, quanta gente è stata uccisa durante la rivoluzione culturale? Non basta basterebbe essere solamente un mezzo miliardario. Non andrebbe bene per la sua azienda guadagnare di meno se questo significasse procurare qualche posto di lavoro in questo paese? In sostanza, ciò che mi guida non è il denaro. Non lo faccio più per denaro. Ciò che intendo fare prima di andare in quella grande fabbrica di scarpe, su nel cielo, è fare di questa la migliore azienda possibile. Io ho la convinzione che gli americani non vogliano fabbricare scarpe. Se io riuscissi a trovare 500 persone a Flint nel Michigan, lei aprirà la fabbrica? Mi dovrà convincere che loro vogliano fabbricare scarpe e che lo possano fare a condizioni economiche ragionevoli. Loro non lavorano per $5 al giorno. Lo capisco, ma a condizioni economiche ragionevoli ci rifletterò. Phil sembrerebbe uscirne con le ossa rotte, in realtà in America essere un vincente comunque ti porta la stima di tutti, anche quando non è più il caso di domandarsi come hai vinto. Poi rimane anche il fatto che Phil è l'unico che affronta a viso aperto Moore da uomo coraggioso che non arretra. Poi decidete voi, insomma, come giudicare un personaggio come Phil Knight. È stato sicuramente un grande imprenditore, però è anche vera l'obiezione di Michael Moore. Cosa cambia per un miliardario che ha un patrimonio stimato di $35 miliardi? Cosa cambierebbe essere un mezzo miliardario, avere magari 17 miliardi invece invece di 35? Però insomma, agire secondo un'altra etica, ma chi lo sa, non potremo mai dirlo noi. Se volete mandare dei commenti su questa vicenda, sapete dove trovarci. Ciao, a domani. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Simona Capodanno, con la collaborazione degli studenti del Master in Radio, TV e Web Content della 24 Ore Business School, Jacopo De Franchi, Chiara Federighi, Matteo Scelsa e Silvia Vitello.